Guardami parlare a vanvera, io non penso. Ho sentito così tante urla che non so che cosa sia il silenzio. Il silenzio. Se solita scena, la pioggia in faccia prende male, fermo immobile a fumare, niente va come dovrebbe andare. In generale, ciò che mi influenza non si riversa agli altri, ho perso l'aderenza, adesso scivolo. Rimani. Il giudizio su di me, perché ancora non mi hai capito, non sono più sbalordito, è crollato ogni mio mito. Ora sono l'idolo di me, non mi fermo all'apparenza, e nulla è logico, del resto il senso è il sesto di cadenze. E non dirmi che ho ragione, cerco realtà diverse, sono il primo della lista delle anime perse. Ascolta le frustrazioni in canzoni a tuo prodotto, e dopo osserva le reazioni del mio ego nella notte. Ora cerco un sottofondo, una melodia che possa cullare le parole, non frenare la mia corsa, non ho bollette da pagare, vivo a rate consumando, ultimamente non lo sai quanto fare a cambio. Vengo dalle parole soffocate nella bocca, vengo da chi non dorme con la coscienza sporca. Son venuto per le verità più scomode, vado da chi mi cerca, ha paura un po' di me. Vengo a raccontare quello che non vuol sentire, chi spesso mi evita, ha paura dell'ignoto. Vengo da chi ha sempre una musica più alta e fa finta che la vita sia solo uno strano gioco. Questa va chi ha terra bruciata intorno, storie di una notte che non si è mai fatta giorno. Per chi ha deciso di togliersi di torno, perché non sempre l'andata comprende il ritorno. Potessi fare altro, non sarei già steso al suolo, quindi mettimi in cuffia e non sarei più solo. I miei ricordi come nuovi, ma preferisco ruggine, e scrivo ancora per colmare la mia solitudine. Come una gabbia d'oro con i tuoi manifesti, piena di insetti, e se ti ami ti detesti, ma è così che ti conosci e apprezzi i tuoi difetti. Ogni medaglia ha la faccia che meno t'aspetti. Io invece da parecchio già so quello che mi aspetta. Scendo lentamente mentre scalo la mia vetta, vedendo la mia penna che smette di scrivere, cercando l'ottimismo che mi faccia ridere. Vengo dalle parole soffocate nella bocca, vengo da chi non dorme con la coscienza sporca. Son venuto per le verità più scomode, vado da chi mi cerca, ha paura un po' di me. Vengo a raccontare quello che non vuol sentire, chi spesso mi evita, ha paura dell'ignoto. Vengo da chi ha sempre una musica più alta e fa finta che la vita sia solo uno strano gioco. Vengo dalle parole soffocate nella bocca, vengo da chi non dorme con la coscienza sporca. Son venuto per le verità più scomode, vado da chi mi cerca, ha paura un po' di me. Vengo a raccontare quello che non vuol sentire, chi spesso mi evita, ha paura dell'ignoto. Vengo da chi ha sempre una musica più alta e fa finta che la vita sia solo uno strano gioco.